su Radio Wombat. Questa è Radio Wombat. Radio Wombat. 8 Hertz. Eccoci qua alla nuova puntata di 8 Hertz. Questa volta il titolo 8 Hertz è molto indicato, perché si parlerà proprio di frequenze basse, quindi chi non ha le basse sullo stereo, insomma, lasciate il programma voi che entrate, ogni programma voi entrate, e praticamente è su, cercato di parlarvi un po' del down tempo o del mid tempo, insomma, quindi dei beat abbastanza rallentati, martellanti, potenti, e in particolare questa trasmissione è su un certo tipo di down tempo. Il down tempo può essere anche dal jazz a qualsiasi forma anche di elettronica pulita, e invece noi ci soffermiamo sull'aspetto più industrial, rumoroso e hip hop della cosa, miscelando un po' tutte queste componenti. La prima cosa che vi voglio far ascoltare è appunto di Scorn, che è un musicista che è molto importante un po' nella storia di un certo tipo di musica pesante. Infatti era il batterista dei Napalm Death, il primissimo batterista, e dopo un po' si è messo a fare le cose per fatti suoi e appunto ha iniziato a miscelare questi beat pop con frequenze bassissime, dub, e dei suoni che girano molto cupi. Insomma, ve lo faccio sentire. Questo è tratto dal secondo disco, che si chiama Colossus, che è del 1993, della Rush, pubblicato da Rush, e ancora non era tutto completamente elettronico, ma c'erano ancora dei beat di batteria suonati, poi magari campionati, messi in loop, però ancora aveva una parvenza umana. Ed eccovelo. Aspetta, piccolo problema. Thank you. era Scorn, ovvero Mick Harris, che appunto era il batterista dei Napalm Death, dei primissimi Napalm Death, credo i primi due dischi. Insieme a lui suonava la chitarra sempre in Napalm Death, tale Justin K. Broderick, che è un altro personaggio chiave della scena inglese degli anni 90, di un certo tipo di sonorità, che poi è sfociata nell'industriale e nell'elettronico. Justin Broderick, oltre ad aver partecipato nel primissimo Discord, mi pare, è famoso, è molto conosciuto per aver creato il progetto Godflesh insieme a J.C. Green, che era il bassista di Godflesh, e poi ha fatto anche un progetto drone che si chiama Final. Broderick ha fatto miriade di cose, anche Jesu, che abbiamo ascoltato in una puntata precedente. E poi c'è un'altra figura di riferimento in questo ambito, che anche è Kevin Martin. Anche lui ha fatto 200.000 cose, stasera ne ascolteremo due o tre. L'unione tra Justin K. Broderick e Kevin Martin nel 94 ha creato, prima del 94 ha creato questo gruppo che si chiama God, quindi c'è anche il gioco tra God e Godflesh. Il disco, il pezzo che ci andiamo a ascoltare è del 94, dell'ultimo gruppo, dell'ultimo disco dei God, che si chiama The Anatomy of Addiction. Nei God era tutto molto suonato, però diciamo che rimandava comunque a una concezione elettronica della musica, miscelata anche a un po' di jazz core. Infatti avevano sassofoni e così via. Ora lo metto subito, e intanto provate a legare Scorn con God. Subito dopo metterò i Godflesh, che è un remix di un disco che fecero loro, che si chiama Love and Date. Il disco di remix si chiama Love and Date in Dub, del 97, sempre per la RH. E qui potete già iniziare a sentire un po' il down tempo elettronico. Intanto ascoltate God con Tunnel. We'll be right back. Thank you. avete ascoltato i Godflesh con Time, Death and Wastefulness in Dub, tratto dal Love and Gate in Dub, appunto dei remix di un disco loro che si chiama Love and Gate. Questa qui è un po' una summa di un po' di quello che appunto stiamo parlando e ascoltando in questa serata, ovvero un mix di dub, di sonorità heavy simili al metal, all'hip hop e all'industrial. Un altro progetto di Broderick, però è già dei 2000 inoltrati, infatti del 2009, sono i Grey Machine, che è un disco unico che si chiama Disconnected, uscito per la Hydred. Grey Machine è ancora più noise delle cose precedenti che ha fatto, è insieme tra gli altri membri di questo gruppo, che non credo si sia mai esibito. Insieme ci sono appunto Aaron Turner, che è il noto membro degli Isis e ha fatto anche lui altri 3 miliardi di progetti, tra cui Mammifer. Ascoltiamocelo, e sì, ci sono sonorità già molto più attuali rispetto alle altre, ma comunque insomma, non che le altre siano brutte, tutt'altro, hanno gettato il seme per queste. Grey Machine con Sweet Shop. We'll be right back. E ci sta a parlare di Dalek, che è un rapper del New Jersey. Dalek è un MC e il suo progetto, che si chiama appunto Dalek, insieme a Octopus alla produzione, e ha pure un'etichetta che si chiama Deadverse. Dalek è importante perché fa una sorta di hip hop veramente particolare e unico. Cioè, si riesce a capire che lui in 5 secondi, perché ha delle ba nelle basi spesso sono piene di rumori, droni, metallo proprio, e polvere. Il pezzo che ascoltiamo ora è tratto da Deadverse Massive, che è una compilation di rarità dal 99 al 2006, e il brano in questione è insieme ai Kid 606 del 2002, che si chiama Ruin It, Run It, no, aspetta, Ruin It, Ruin Them, Ruin Yourself, then Ruin Me. Era molto complicato come titolo, molto lungo. Tra l'altro qui il beat, che è un po' della puntata, che scorre lungo tutti gli episodi che ci andiamo a ascoltare, è sdoppiato, nel senso che sulla cassa destra troverete un ritmo, sulla cassa sinistra un altro, e contemporaneamente creano un po' quasi un mondo a parte, una sensazione particolare e speciale. Quindi potete anche giocare se avete il pan, se avete un amplificatore, a mettere la cassa destra e sinistra per capire la differenza ritmica, oppure in cuffia lo apprezzate meglio. Lo metto. Tremble at the thought of what I've become. That sorry proud image in puddles leaves me crying rivers. These tender words are muted by the stench of life long before they could ever reach your ears. You relate to mere echoes of what never stops but in my mind. Entrails of truth left to scatter at the feet of humanity. Plain sight leaves sour taste in this parched mouth. Remain stricken with doubt as I exchange pounds with those who remind me what I was. And confine me to chains with my blood. Again. Troubled souls towards a new mark in this wet sand. Enjoy the bland mundane circumstance that led us to this standing match. Breathe deep within my own collapse. E tra queste sonorità mi piaceva inserire anche Meira Asher, che è un'israeliana, ma trasferita in Europa perché, insomma, politicamente era pro-palestina, dunque ha visto bene di andarsene. È un artista, se si può dire, abbastanza propositiva. I suoi lavori, appunto, come nell'album, il pezzo dell'album che metteremo, parlano appunto del conflitto sul conflitto arabo-israeliano, oppure come Infantry, che era sia un album, una performance, parla della manipolazione dei bambini che poi diventano soldati, oppure Face W. Slot, che è sia un'installazione che un documentario sulle donne che prima erano delle ragazzine, bambine combattenti in Sierra Leone, oppure altre cose più recenti come Myelination, che parlano della sclerosi multipla. Il disco Spears into Hook del 92 è stato fatto insieme a un compositore di musica elettronica che si chiama Second Gen, e è quello, a mio avviso, un pochino più industrial, un pochino più ritmato con la concezione appunto della trasmissione di stasera. Quindi vi faccio ascoltare due pezzi di seguito. Il primo si chiama, è proprio suo e si chiama Shahid, che significa martire in musulmano, insomma. E il secondo pezzo è di Second Gen, da solo, si chiama Non Plused. Continuate a sentire questo filo che scorre nella trasmissione, insomma. Another religious boy again does another act of a saint. Thus, by boat or by feet, Shahid drives a holiday beat. Another religious boy again does another act of a saint. Bus, bike, boat, by feet, Shahid drives a holy deadbeat. Another religious boy again does another act of a saint. Bus, bike, boat, by feet, Shahid drives a holy deadbeat. And a selected army squad sent to the village where he stayed, said to his family, house, and explode his house. House. House. Street cleaners do an exceptional job here. The dear fellow flies to heaven, they body them corpse seven. In the Holy Land there is no time to spare, to be despair, do not dare. In the Holy Land there is no time to spare, to be despair, you just stand there and stare. Continue and bear. Another religious boy again does another act of a saint. Bus, by boat or by feet, Shahid drives a holy deadbeat. Now the boy isn't fast, really excited to be blast. Ready for the feast, I'm gonna have up in the mist. I wanna join, my buddies are expecting me. Down here there is no one left for me. My buddies are expecting me. Down here there is no one left for me. As underdogs in quarantine, there no bread but discipline. I am alive, I am a dead. I'm gonna go straight to be shredded. No alibi, I for an eye. Nobody denies me in the sky. I am alive, I am dead. I'm gonna go straight to be shredded. No alibi, I for an eye. Nobody denies me in the sky. I am alive, I am dead. I'm gonna go straight to be shredded. No alibi, I for an eye. Nobody denies me in the sky. I am another religious boy again. I do another act of a saint. Bus, bike, boat, or by feet. She drives a holy dead bitch. Genocide leaves a trace. Sei su 8 Hz su Radio Wombat. E proprio vi voglio ricordare un po' di indirizzi utili social, sul sociale. Insomma, il sito non ve lo ricordo perché se state ascoltando ovviamente ci siete arrivati. C'è un Twitter che si chiama twitter.com/radiowombatfi, Wombat sempre con la W, un Facebook, facebook.com/radio-wombat-Firenze. C'è una mail che forse è la più importante di tutte, che si chiama postawombat@insiberia.net, dove potete sbizzarrirvi a scriverci. Ci farebbe molto piacere, dalle infamate agli apprezzamenti. Potete anche scrivere i commenti sul sito, che è wombat.noblogs.org. Fatelo, dai, che ci sentiamo meno soli in queste notti invernali terribili. Anzi, ancora non è inverno, ma ci siamo quasi, comunque fa freddo. Ok, prima abbiamo parlato dei personaggi chiave di questa puntata, che erano Broderick, Kevin Martin, Nick Harris. Adesso andiamo ad ascoltarci ancora qualcosa di loro, in un altro progetto che si chiama Techno Animal, che appunto è sia di Broderick che di Martin. Forse una delle cose più estreme dal punto di vista elettronico che abbiano fatto è molto più vicino all'hip hop. Questo pezzo si chiama Blood Money, è del 2001, è tratto da The Brotherhood of the Bombs, o The Bomb senza S. Devo abbassare il volume perché questo pezzo, tutte le volte che viene messo, ha una potenza bestiale. Spero che comunque voi che lo ascoltate da casa, tutte queste cose riuscite a apprezzarle anche a livello di qualità audio. Ora non sono audiofilo, però le basse vanno sentite bene, ecco. E stasera non poteva mancare un pezzo dei Dead Grips, che sono tra i, forse la cosa più conosciuta che metto stasera, insomma, rispetto a tutte le cose che vi ho fatto sentire. Il cantato cafone Dead Grips, vabbè, si sa, insomma, loro sono di Sacramento. Metto un pezzo che tra i più conosciuti si chiama Come Up and Get Me, tratto dal loro secondo album, No Love Deep Web. Senti come pompa. As I fuck in my thing, I don't hate. Tell me my time's almost up. I'll say, I can't wait. What's your plan in my head? I'll blow smoke in your face. Keep you going in chains. Come on, be happy. Hell in my head, 13th bell. Am I dead or in asylum? Feel for a sip. Lying to myself, I'm by myself. Strapped down to my bed. Tongue cut out the mouth of reason and choked off the river's edge. Sink fast, it's a tear gas. I feel masked by figments of my fragmented mind. Who's my enemy? Demo me, step to me, and then die. Grand illusions magnified. Fuck the truth, waste my time. It's all good, bet. What's that? Footsteps on the stairs. Never could rest, they're always there. Who are they? I don't care. I just know they're trying to ask me. Give a fuck, come up and get me. Stasera sono tutti brani che sono influenzati un po' dalla black music e sì, insomma da queste cose afro, anche nei ritmi, soprattutto nei ritmi. E Il pezzo di ora, infatti, è di un altro progetto di Kevin Martin, che ormai sembra quasi una monografia su di lui, ma non è così. Si chiama The Bug il progetto. Appunto, riprende cose passate di tutti i suoi lavori, ma è un po' più afro la cosa, quasi reggae-maffi. Il pezzo che ascoltiamo è tratto da un EP. Che si chiama Action Pack. Questa è la Red Version. Questo EP è stato fatto insieme a Warrior Queen, che è una tipa che gli appassionati più sinceri del dub conosceranno. E vai con The Bug. Thank you. parecchio aggressivo, ovviamente. Un altro personaggio chiave è Brian Jones di Manchester, ovvero Muslim Gods, che è appunto un tipo inglese che ha sempre fatto tantissimi dischi autoprodotti, tutti sul conflitto arabo-israeliano, ovviamente a favore della Palestina, sempre stato, però non è mai andato in Medio Oriente, non si è mai spostato, purtroppo è morto di una cosa un po' particolare. Tra le tante cose che ha fatto, ovviamente tantissime sono su roba basata sui beat, un po' trip hop, down tempo hip hop e così via. Vi faccio ascoltare una cosa, ovviamente tutti con campioni arabeggianti, titoli arabeggianti, a parte questo che si chiama, almeno come titolo, Wish of the Flyed, ve l'ascoltate. questo era il suono di Muslin Gauz. Adesso vi faccio sentire un po' gli sviluppi di Scorn, che comunque roba sempre degli anni 90, perché continua a fare album, ma forse negli ultimi 3-4 anni non sta facendo uscire nulla, però insomma ha continuato per parecchio. Per insomma farvi sentire la diversità rispetto alla traccia d'apertura della puntata, questa qui è molto più minimale, quasi bidimensionale, è uno dei miei pezzi preferiti suoi, tratto da Loggi Baroggi e si chiama Dudegic. È un bel viaggio, insomma. We'll be right back. l'immaginario è appunto lo scenario suburbano, i capannoni, posti isolati, cittadini, stazioni dei treni in notturna abbandonate, dove sei tu solo a prendere il treno, a aspettare il treno, a riflettere. La puntata è così. Questa perla era di Carl Krack, il pezzo è If You Mess With Me, l'unico disco che ha fatto solista è Ark del 98, uscito per la Digital Hardcore, appunto perché Carl Krack era uno dei membri degli Atari Teenage Riot, che sono ben noti per aver introdotto l'elettronica nell'hardcore, ma non l'hardcore quello tum tum tum, ma l'hardcore proprio quello storico, insomma, suonato, e loro hanno reso il tutto in una chiave completamente digitale. Le chitarre che si sentono nei Atari Teenage Riot, almeno nei primi lavori, erano tutti chitarre campionate da pezzi anche storici come nei Bad Brains, per esempio, e proprio ora mettiamo un pezzo degli Atari Teenage Riot tratto dall'ultimo disco, che si chiama Reset del 2014. Questo pezzo appunto è appunto sempre un down tempo, un tempo molto lento e picchiante, come si può dire. L'ultimo disco, tra l'altro, è molto interessante perché appunto più o meno il concetto è: renditi il più anonimo possibile da tutte le forme di social network e non solo. Cancellati, fai in modo che nessuno sappia nulla di te. Mi sembra molto interessante come cosa, è parecchio cyberpunk. Infatti il pezzo che state per ascoltare si chiama Erase Your Face e anche il testo appunto è molto interessante. Secret is that I actually stopped existing. Germany. This spying on your life by the state is one thing, but what it does to your friends and family in the long run is beyond anything you can imagine right now. You lose trust in people you love, and every conversation becomes half lie, half truth. Nobody is an exception. So ignore music, games, or whatever you do right now and research the topic. Because anything you've said in the past can be twisted against you in a surveillance state. Made the wrong joke in private? You're constantly being blackmailed by those in charge. History has shown that these types of societies never last. They get so corrupted with lies that many people suffer in the end. Everybody loses. Cancella la tua faccia, un pezzo di Atari Teenage Riot. Mi sono scordato di dirvi che negli ultimi album Carl Crack non c'è, perché purtroppo lo trovarono morto nella sua stanza. E Carl Crack è stato fondamentale per gli Atari, perché appunto ha importato tutta la chiave black degli Atari, cioè un certo tipo di ritmi hip hop, un certo modo di parlare, di rappare, insomma. Così, insomma. Per tuo ascoltatore notturno che ci stai ancora ascoltando, su 8 Hz appunto in Radio Wombat, ti metto due brani un pochino più rilassanti, che ti danno un attimo pace, sempre appunto parlando di downtempo. Il primo che ascolti è un pezzo degli Otecre, il secondo è dei Fansonic. Il primo si chiama Arch Carrier, tratto da LP5 del 98, mentre il pezzo dei Fansonic si chiama Urano Chemia, tratto da Osaste Pick, era appunto un EP del 96. Buon ascolto. siamo arrivati alla fine con l'ultimo pezzo, ritorna Dalek con la trasfigurazione, con un pezzo quasi gioioso, comunque sempre urbanissimo, si chiama Back to Barn, tornare a bruciare. Ringrazio gli ascoltatori e magari chi si è affezionato al programma. Vi do la buonanotte e ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Wombat, 8 Hz. Ciao.